Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Se dovessi caratterizzare il XX secolo, direi che ha suscitato le più grandi speranze che l'umanità abbia mai avuto e che ha cancellato tutte le illusioni, gli ideali. Compito arduo oggi per Destini incrociati. In ballo c'è il Novecento, secolo affascinante e terribile, troppo recente per abbandonarlo alla paziente mano degli storici e troppo ingombrante per riuscire a parcheggiarlo in una qualche soffitta. La definizione che avete sentito in apertura è stata data da Yehudi Menuhin, violinista di origini ebree di fama mondiale, che ha avuto il pregio di riassumere bene e in poche parole il XX secolo e il suo impatto nella realtà comune. E la grande qualità degli artisti, quella di utilizzare la sensibilità, il talento e l'ispirazione per mettere le cose al posto giusto e in maniera sintetica. Grande è anche, come dicevamo, la sfida di oggi, e cioè il racconto di due uomini, due personaggi che hanno contribuito spesso in maniera determinante a scrivere la biografia del mondo e quella dei suoi abitanti, attraverso le loro scelte e le loro decisioni. È probabile che di alcune avrebbero volentieri fatto a meno, ma ci sono momenti e ruoli nella vita che non ammettono indugi. Vale la vecchia regola: più vai avanti, più la posta in gioco si alza, sia che si tratti di privilegi che di responsabilità. Il mondo si divide in tre categorie di persone, un piccolissimo numero che fa accadere gli avvenimenti, un gruppo un po' più importante che veglia la loro esecuzione e assiste al loro compimento, e infine una vasta maggioranza che giammai saprà ciò che in realtà è accaduto. Stavolta il merito della frase va attribuito a Nicholas Murray Butler, un nome da pugile che nasconde una figura poliedrica del secolo appena trascorso. Illustre studioso, storico presidente della Columbia University e vincitore del premio Nobel per la pace, nonché amico e confidente di tanti grandi della Terra. E lui a fornirci un altro indizio, una chiave di lettura un po' diversa. Lasciato da parte l'intento provocatorio, un fondo di verità sembra emergere e all'aria piuttosto interessante. La storia è fatta di eventi e persone, ma l'ingresso talvolta è piccolo e nelle foto ricordo non c'è spazio per tutti. Possiamo cominciare. Siamo negli Stati Uniti d'America, in Virginia, stato incastonato nella costa atlantica tra il Maryland e la Carolina del Nord. Un posto carico di valore simbolico. Fu infatti una delle 13 colonie che si ribellarono al dominio britannico e che combatterono la guerra che portò all'indipendenza e alla nascita della più giovane democrazia mondiale, quella a stelle e strisce. È qui, più precisamente a Staunton, che il 28 dicembre 1856 nasce il nostro primo protagonista di oggi. Il suo nome è Thomas Woodrow Wilson. Thomas Woodrow Wilson. È un caso che il piccolo Thomas sia nato in Virginia. I suoi genitori, infatti, di origini nordirlandesi, provengono dall'Ohio ed è più a sud, ad Augusta, in Georgia, che si recheranno poco dopo l'arrivo del figlio. È un periodo in cui gli spostamenti all'interno del suolo americano sono all'ordine del giorno. Ma non è solo il territorio sterminato a indurre la gente a muoversi. La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura. Quello che avete appena sentito è il contenuto del 13° emendamento, 4 righe che provocheranno un terremoto e tanto movimento. Siamo nel 1861, c'è Abramo Lincoln alla presidenza e la sua elezione, unita alla volontà di abolire la schiavitù, scatena una divisione all'interno degli Stati Uniti. Alcuni stati del sud si uniscono in una confederazione, eleggono un loro presidente, Jefferson Davis, e armano il loro esercito. Il nord reagisce, prende in carico la responsabilità di tenere unita la democrazia e risponde sul campo. È la guerra di secessione, una lotta senza esclusione di colpi che bagnerà di sangue la storia americana. Anche casa Wilson viene travolta dagli echi e dagli eventi di questa terribile battaglia. I genitori di Woodrow non fanno nulla per nascondere la loro simpatia verso gli Stati Confederati. I primi ricordi d'infanzia del piccolo Woodrow saranno inevitabilmente legati a questi accadimenti. L'immagine del presidente Davis fatto sfilare in manette dal vittorioso esercito nordista rimangono impresse nella sua giovane mente. Woodrow Wilson, ragazzo dal futuro ancora incerto, guarda la realtà che lo circonda e sogna di affiancare il generale Lee nella battaglia contro gli unionisti. Non c'è ancora un disegno preciso, ma è chiaro che la politica, in un modo o nell'altro, ne farà parte. Mentre l'America cerca di rimettere a posto i cocci lasciati dalla guerra, il giovane Woodrow Wilson si getta nello studio e lo fa con coraggio e abnegazione. Coraggio perché il suo rendimento è condizionato dalla dislessia che lo tormenta e abnegazione perché riesce a superarla quasi del tutto, grazie a una ferrea determinazione e alla stenografia, che decide di imparare per compensare le difficoltà. Woodrow è uno studente brillante e un appassionato di scienze politiche e comincia a mettere per iscritto le sue idee. Mentre passa dal college alla rinomata Princeton University, con una parentesi alla University of Virginia, per seguire un corso di giurisprudenza, Wilson lavora alacremente alla sua formazione, che sembra sempre più indirizzata verso la cosa pubblica. La vita da studente del nostro protagonista termina nel modo migliore. È parere unanime, infatti, ritenere il lavoro accademico che lo porta al dottorato come il miglior scritto di Woodrow Wilson. Si tratta di Governo congressionale, un saggio a cui l'autore dedica anni e che viene accolto con curiosa ammirazione. Un lavoro che cavalca le perplessità legate al governo statunitense, alle prese con la ricostruzione e alle difficoltà di una democrazia così giovane. Wilson punta l'indice contro la struttura costituzionale americana e in particolare contro il Congresso, il vero vincitore della guerra di secessione americana, facendo leva sulle difficoltà di individuare i responsabili della vita politica. Come può il preside della scuola sapere quale ragazzo ha bisogno di essere bacchettato? Il potere e la precisa responsabilità del suo uso sono gli ingredienti fondamentali del buon governo. È quindi evidentemente un difetto alla radice nel nostro sistema federale che esso suddivida molto il potere e renda confuse le responsabilità, come fa ora. L'intento di Wilson è analitico, cioè quello di individuare le crepe strutturali dell'intricato sistema politico statunitense. Ma è difficile non intravedere tra le righe lo spirito di avanguardia e le folate di leadership che lo caratterizzano. Al di là della struttura, secondo Woodrow, c'è sempre la stoffa. Questo fa di un buon politico un ottimo capo. La democrazia ha bisogno di regole, ma anche di uomini. Il lavoro si limita all'esame della situazione attuale e solo qua e là viene puntellato da proposte concrete. Ma è il talento di Mr. Wilson la vera costante. Il suo credo politico è ancora acerbo e privo di conoscenza pratica, ma è indubbiamente un terreno su cui potranno crescere buoni frutti. Per il momento Woodrow si limita a proseguire la sua carriera accademica. Dopo aver insegnato in un paio di college, l'università dove è cresciuto, la Princeton University, lo chiama per insegnare giurisprudenza ed economia politica. Durante la permanenza, l'accademico talvolta sostituisce l'insegnante e viceversa. E per Wilson la scalata diventa breve. Dopo aver tenuto un importante discorso per il 150° anno della celebre università, ne diventa nel 1902 rettore. Viene eletto all'unanimità, a dimostrazione della raggiunta maturità e del carisma. L'obiettivo comincia a farsi più nitido. Nel 1908, nel suo saggio Governo costituzionale degli Stati Uniti, scrive queste parole. La presidenza degli Stati Uniti sarà tanto grande e tanto influente quanto l'uomo che ne rivesterà la carica. È una specie di profezia. Negli anni successivi la reputazione e la figura di Wilson continuano a crescere grazie ai numerosi scritti con cui commenta la situazione politica del paese, finché il Partito Democratico, un po' a sorpresa, non gli chiede di candidarsi per la carica di governatore del New Jersey. Il nostro protagonista accetta volentieri e per lui è l'inizio di una cavalcata che lo porterà sul trono più alto del mondo. Ti ha dato tempo al tempo, trovi il tempo per scappare via, perché la gente stanca è gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità, datemi, datemi, datemi un'altra identità. We'll be right back. tatue, voglio pulizia. Che no, che non sogno, ma ne ho bisogno, tutti ne hanno bisogno. E prova ad urlare, 10.000 palloni volare. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Durante la campagna per la carica di governatore del New Jersey, Woodrow emerge per le sue capacità di svincolarsi dalle visioni più conservatrici, portando avanti una piattaforma progressista che crea consensi e suscita interesse. Se ne accorge ben presto anche lo stesso Partito Democratico, che decide di giocarsi la carta Wilson anche per le elezioni presidenziali del 1912. Da un certo punto di vista è un azzardo, ma sul panno verde a giustificare il rischio c'è il carisma e la ventata di freschezza che il Democratico del Sud riesce a portare con sé. Woodrow Wilson, dal canto suo, è pronto a giocarsi tutte le sue carte. Nel giro di poco tempo crea uno staff per vincere la corsa alla Casa Bianca. Ed è proprio in questo mazzo che emerge, tra le altre, la figura giovane e vigorosa di un senatore dello stato di New York incontrato a una convention che il candidato democratico sta pensando di portare con sé. Il suo nome è Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Come ci sia arrivato Roosevelt alla corte del più celebre Woodrow Wilson è presto detto. Da un lato la sua famiglia, una delle più antiche dello stato di New York, vanta una lunga tradizione in diversi settori della vita politica. Dall'altra, il carattere di Franklin possiede la stessa granitica determinazione del suo prossimo capo. Per questo, fin da giovane imbocca il percorso di istruzione con ostinata convinzione, formando il suo carattere alla Groton School in Massachusetts, una delle scuole più prestigiose d'America, la cui severa e rigorosa disciplina contribuisce a temprare il ragazzo. La laurea ad Harvard in soli 3 anni conferma le grandi qualità di questo giovanotto che ben presto non si accontenta della vita da avvocato e nel 1910 decide di candidarsi al Senato di New York, naturalmente per il Partito Democratico. È il suo ingresso ufficiale in politica. L'impatto non gli toglie solidità. Roosevelt non è uno che si fa notare per la presenza, semplicemente uno che capisce e si muove in fretta, puntando al sodo. Questo è il ritratto che un suo collega dell'epoca, Francis Perkins, tratteggia. Alto e snello, molto attivo e vigile. Si muove sul pavimento, entrando e uscendo da comitati locali. Parla raramente con i membri, non risulta particolarmente affascinante e sorridente. E ha un'abitudine strana e inconsapevole di muovere la testa. E questo, combinato con gli occhialini e la grande altezza, gli dava l'aspetto di guardare giù la testa alla maggior parte delle persone. A questo punto si aggiungono piccoli indizi. Roosevelt è già sposato da qualche anno con la cugina Eleanor, anch'essa fervente sostenitrice democratica. E tra i suoi innumerevoli altri parenti c'è Theodore, presidente degli Stati Uniti fino a qualche mese prima. E se tutto questo non bastasse, Franklin, fin dalle sue prime apparizioni nella cosa pubblica, mette in mostra una qualità rara, quella di non piegarsi necessariamente ai capi e alle logiche di partito, portando avanti le sue idee e i suoi obiettivi con piglio e spirito di iniziativa. È questo il suo profilo quando viene nominato presidente del Comitato per le Foreste, la Caccia e la Pesca. Tutto oro sberluccicante per Wilson, che con lungimiranza decide di inserire il giovane democratico nel proprio gruppo. Per Roosevelt è una specie di sogno che si realizza. Per Wilson una scommessa vincente, perché il sogno per lui si realizza qualche mese dopo. There is a new party which it is difficult to characterize because it is made up of several elements. We are not here to destroy the industry which these men have built up, but we are here to destroy the control over the industry of other people which these men have established, and which makes it impossible that we should give ourselves a free hand in the service of the people. È il 1912 e il candidato democratico Woodrow Wilson, sfruttando la divisione interna al partito repubblicano, vince un po' a sorpresa le elezioni e diventa il 28esimo presidente degli Stati Uniti d'America. In mezzo alla folla entusiasta ad applaudire c'è Franklin Delano Roosevelt, giovane delfino che il neo presidente ha voluto con sé. L'America ha un nuovo capo che dovrà dimostrare di avere quella stoffa che tanto aveva auspicato per la guida della patria. Il quadriennio che segue l'elezione permette a Wilson di dimostrare tutte le sue qualità. Il presidente tiene fede ai suoi principi e guida l'America attraverso una serie di riforme che recano la sua impronta. È l'epoca della cosiddetta New Freedom, la nuova libertà, slogan con cui il democratico porta avanti il suo progetto. La Commissione Federale del Commercio e la nascita della Federal Reserve sono i due provvedimenti più importanti e più immediati, che sottolineano l'intenzione di venire incontro agli interessi del popolo americano attraverso una politica monetaria e commerciale più equa. Gli anni di governo vengono affrontati da Wilson con coraggio, strizzando l'occhio al populismo, consentendo un miglior accesso al credito ai cittadini e attuando una serie di garanzie per i lavoratori. L'America risponde con un buon consenso, anche se i nemici puntano l'indice contro una gestione del problema razziale considerata ambigua. La schiavitù è stata abolita, ma è chiaro che il problema necessiterà di molto più tempo. Ciò nonostante, il nostro protagonista prosegue il suo lavoro di rinnovamento, che culmina con altri provvedimenti a favore dei lavoratori poco prima delle nuove elezioni. Nel frattempo, il giovane Roosevelt, brillante politico su cui il presidente aveva scommesso, è impegnato a svolgere il suo nuovo incarico, il sottosegretariato alla Marina, un ruolo che ben presto diventerà cruciale. Basterà attendere il 1917, un anno fondamentale nella storia americana. Non sto pensando alla perdita della proprietà interessata, pur immensa e seria com'è, ma solo alla distruzione sconsiderata e indiscriminata della vita dei non combattenti. La proprietà può essere ripagata. La vita di gente innocente e pacifica, no. È il 6 aprile 1917 e gli Stati Uniti, con le parole del suo presidente Wilson, entrano ufficialmente come nazione belligerante nella Prima Guerra Mondiale. È una decisione sofferta, considerato che lo stesso presidente aveva fatto del non interventismo una delle bandiere della campagna per la rielezione. Ma il peggioramento della situazione e le preoccupanti notizie sui danni alle navi americane provocate dai sottomarini tedeschi provenienti da quel Roosevelt che ha piazzato in marina convincono Wilson a entrare nel conflitto. Si tratta di una decisione fondamentale che condizionerà la storia della nazione stessa. Non tanto e non solo per l'esito, ma soprattutto per le conseguenze che avranno modo di segnare gli anni a venire. Ed è toccato proprio a Woodrow Wilson, ex brillante accademico dalla penna tagliente, guidare il suo popolo attraverso questa scelta difficile, mostrando quel carisma che tanto riteneva necessario. Mentre Roosevelt, impegnato in operazioni militari, risponde obbedisco al richiamo del suo mentore, il mondo cade in un periodo buio, le cui brevi schiarite non riusciranno ad attenuarne l'oscurità. Tempi di uomini e di decisioni forti e di passaggi ideali di testimoni. La storia va avanti, tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. Destini incrociati si trova nel bel mezzo di un conflitto intercontinentale, quella prima guerra mondiale che sta scrivendo pagine terribili e insanguinate di storia. Tra le nazioni coinvolte in questa follia c'è anche l'America del presidente Woodrow Wilson, che chiama a raccolta i suoi nipoti puntando l'indice dello zio Sam. L'accademico dall'indole progressista, eletto tra le fila dei democratici, si è visto costretto a trascinare il suo paese negli abissi della battaglia. E in quegli stessi abissi è finito Franklin Delano Roosevelt, giovane politico rampante che Wilson ha messo in marina dopo averlo individuato e scelto fra tanti, forse colpito da una determinazione e uno spirito familiari. Per entrambi adesso è il momento di combattere. I want you to remember that no bastard ever won war by dying for his country. You want it? By making the other poor dumb bastard die for his country. Men, all this stuff you've heard about America not wanting to fight, wanting to stay out of the war, is a lot of horse dung. Americans traditionally love to fight. All real Americans love the sting of battle. La Grande Guerra ben presto entra nelle vite degli americani, anche se da lontano. Tra i tanti uomini impegnati nel territorio europeo c'è un tenente colonnello che più avanti si guadagnerà il nome di generale d'acciaio. Si tratta di George Smith Patton, che cerca di sbloccare un conflitto prevalentemente di trincea con l'utilizzo dei primi carri armati. L'intervento degli Stati Uniti nella battaglia si rivela ben presto determinante. Fiaccati da più di 2 anni di combattimenti, gli imperi centrali, contro cui l'America si è schierata, faticano a reggere il confronto. Grazie alla sua potenza economica e industriale e alla preparazione, l'esercito a stelle e strisce contribuisce a risollevare le sorti di Francia e Inghilterra e insieme a loro piega le resistenze della Germania e dell'impero austro-ungarico. La chiamata raccolta del presidente Wilson per salvare le democrazie del mondo, come lui stesso aveva affermato, riesce. E nel novembre del 1918, dopo 3 anni e milioni di morti, gli imperi che nell'Ottocento avevano toccato il loro momento di maggiore fulgore scompaiono e l'Europa, più del resto del mondo, si trova a dover fare i conti con una scia infinita di sangue. Gli Stati Uniti, guidati dal loro leader, siedono sul tavolo dei vincitori. The Big Four, Lloyd George, Orlando, Clemenceau, Wilson. Lloyd George and Orlando, tough-minded. Concerned with such realities as economics, territories, punitive measures. Clemenceau and Wilson. Wilson with his 14 points. And old Clemenceau who says, Mr. Wilson bores me with his 14 points. Mentre Franklin Delano Roosevelt può finalmente fare ritorno a casa, per Woodrow Wilson è il momento dei trattati di pace. Insieme alla sua delegazione si presenta a Versailles, dove i leader vincitori cercano di rimettere a posto i danni lasciati dal terremoto che ha appena sconvolto il mondo. Wilson non arriva a mani vuote. Stretto in un pugno delle sue mani c'è un foglio dattiloscritto in cui si trova nero su bianco il piano più ambizioso da lui mai pensato. Si tratta dei famosi 14 punti, un insieme di principi che lo stesso Wilson aveva redatto in tempi di guerra, in previsione della pace e con l'intento di evitare al mondo un'altra tragedia. Il contenuto racchiude tutto il suo pensiero più liberale e democratico ed è una sorta di testamento ideologico del leader statunitense. Il concetto che lo guida è la promozione di una pace senza vincitori, basato sulla convinzione che una pace imposta con la forza ai vinti avrebbe contenuto in sé gli elementi di un'altra guerra. Il sogno di Woodrow è un mondo senza più diplomazia segreta, in cui vigono l'uguaglianza delle nazioni, l'autogoverno dei popoli, la libertà nei mari e una generale riduzione degli armamenti. E per chiudere, forse il punto più significativo. Dovrà essere creata un'associazione delle nazioni, in virtù di convenzioni formali, allo scopo di promuovere a tutti gli stati, grandi e piccoli indistintamente, mutue garanzie di indipendenza e di integrità territoriale. L'idea si dimostra troppo ambiziosa per i leader degli altri paesi costretti a fare i conti con la realtà. L'Europa in particolare è un groviglio intricato da sbrogliare. Dei punti indicati dal presidente americano solo 4 vengono realizzati. L'autodeterminazione dei popoli diviene un principio cardine della nuova era in cui però ben presto si inseriranno interpretazioni fuorvianti e pericolose derive razziste. Vincitori e vinti poi non sembrano essere in grado di mettere da parte tutti i rancori. In più, a bloccare la ventata d'ossigeno democratica di Wilson, c'è il Senato della sua stessa nazione, preoccupato di salvaguardare la posizione di dominio raggiunta. Il nostro protagonista si vede così costretto ad assistere alla nascita della Società delle Nazioni da lui tanto agognata, senza poter prenderne parte. Lo stesso anno a Wilson verrà assegnato il premio Nobel per la pace. Sarà una gioia breve, perché poco tempo dopo un ictus metterà a dura prova la sua carriera. Il presidente resiste per un paio d'anni, ma nel 1921 cede e abbandona la carica. Il 1921, lo stesso anno in cui la vita decide di mettere a dura prova anche quel Roosevelt che sta facendo il tifo per lui. La battaglia per i nostri protagonisti è di nuovo per la vita. Mentre l'ex presidente Wilson lotta tenacemente contro la vecchiaia e la malattia, un fulmine, quasi a voler unire ancora di più i destini di questi due uomini, si abbatte anche su Franklin Roosevelt. e la poliomielite, terribile malattia virale che colpisce il sistema neurologico e che si attacca alle gambe del giovane politico. Sono anni duri in cui Roosevelt, oltre ai problemi fisici, deve fare i conti con una sconfitta elettorale, quella corsa alla Casa Bianca che aveva intrapreso come candidato vicepresidente e che vede vittorioso il Partito Repubblicano. Nel 1924, poi, stremato, viene a mancare anche l'uomo che gli aveva indicato la strada. Woodrow Wilson muore a Washington il 3 febbraio. William Allen White, celebre giornalista, si incarica di comporre l'epitaffio. Dio gli dette una grande visione. Il diavolo ha un cuore imperioso. L'orgoglioso cuore si è fermato. La visione gli sopravvive. Queste poche righe, scritte in memoria di un uomo, diventano come per magia un'eredità che finisce fra le mura di casa Roosevelt. Tutt'altro che abbattuto, infatti, Franklin stringe i denti e decide di rispondere ai colpi della vita. Combatte la malattia con grande coraggio, lo stesso coraggio che aveva permesso a Wilson di tenere a bada la dislessia, e si concede la sedia a rotelle solo in rari momenti privati, lontano dai riflettori. Riflettori che decide di non abbandonare, tornando alla carica e rimettendo in gioco la sua carriera politica. Mentre le nubi che avevano avvolto pochi anni prima il mondo tornano a farsi minacciose, Roosevelt si candida come governatore dello stato di New York e vince, pur di stretta misura. È il 1928 e mentre l'Europa scopre i totalitarismi, l'America viene colpita al cuore. October 29th, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt-edged securities are practically valueless. The stock market crash has come, and the Great Depression has begun. È il 24 ottobre del 1929. Prima l'America e poi in misura minore il mondo cadono in preda a una crisi senza sentire sparare un solo colpo. La borsa, il nuovo mercato che da poco ha catturato gli interessi economici della nazione, vive il suo giorno peggiore e trascina il paese in un buco senza fondo. Migliaia di risparmiatori attirati dalla febbre delle azioni vede le sue ricchezze ridursi in cenere nell'arco di una giornata e sprofonda nella disperazione. È il risultato di anni di politica economica liberista sfuggita di mano, in cui la produzione reale e la ricchezza delle persone si sono allontanate fino a perdersi di vista. Il momento difficile degli Stati Uniti diventa per Roosevelt come un segnale, lo stesso segnale che Wilson aveva avvertito quando si trattò di dimostrare al suo popolo cosa significasse essere una grande nazione. Con il Partito Repubblicano finito sul banco degli imputati, Franklin irrompe, stabilendo una serie di misure urgenti per uscire dal tunnel e candidandosi come presidente. Esattamente come il suo vecchio capo, Roosevelt vince di misura e, insediatosi alla Casa Bianca, mette subito le cose in chiaro. Sono convinto che se c'è qualcosa da temere è la paura stessa, il terrore sconosciuto, immotivato e ingiustificato che paralizza. Dobbiamo sforzarci di trasformare una ritirata in un'avanzata. Chiederò al Congresso l'unico strumento per affrontare la crisi, il potere di agire ad ampio raggio per dichiarare guerra all'emergenza. Un potere grande come quello che mi verrebbe dato se venissimo invasi da un esercito straniero. Detto, fatto, perché fin dai primi giorni Roosevelt si tira sulle maniche e travolge l'America con una serie di provvedimenti con l'intento di tappare le falle di una nave che continua a imbarcare acqua. La sovrapproduzione viene rallentata grazie a incentivi, mentre la svalutazione del dollaro dà la possibilità ai commercianti di poter vendere anche all'estero. Le banche vengono messe sotto controllo e un fondo di emergenza viene stabilito per evitare ulteriori brutte sorprese. Il nuovo corso, il cosiddetto New Deal, diventa ben presto più di un piano di riforme economiche e sociali e si trasforma in missione, in cui il popolo americano immette tutte le proprie energie. Le innumerevoli e imponenti opere pubbliche, realizzate utilizzando quegli stessi disoccupati che riempivano le strade, diventano il simbolo di un paese che, cavalcando il suo ineguagliabile ottimismo, trova la forza di reagire e di dimostrare al mondo la propria forza. Gli Stati Uniti lentamente rialzano la testa e in mezzo a qualche difficoltà riescono a uscire dal periodo di crisi. Per Roosevelt è un trionfo, tanto che nelle elezioni del 1936 viene rieletto con un consenso che non ha eguali nella storia americana. Neanche al suo vecchio maestro Woodrow Wilson era toccata tanta gloria. La nazione che saluta il nuovo mandato è un paese che ha dovuto fare i conti con se stesso, lasciando per un momento da parte le ambizioni verso il resto del globo. L'isolazionismo è diventata una parola sempre più ricorrente per giudicare il comportamento degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo. Il presidente sposa la causa del buon vicinato in attesa di tempi migliori. In agguato però c'è la follia, pronta a prendere di nuovo in mano le redini della storia. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Destini incrociati. Siamo verso la fine degli anni 30 di quel secolo, il Novecento, che sembra voler insistere nella sua corsa piena di aspre salite e ripide discese. Alla guida di un'America convalescente c'è Franklin Delano Roosevelt, FDR, ormai per tutti. Tenace e democratico, che ha saputo sconfiggere rivali politici, dubbi, una grave malattia e una spaventosa crisi economica. Per lui, che aveva inseguito la cosa pubblica, trovando ispirazione e lavoro dal suo predecessore Woodrow Wilson, le sfide non sono finite. La stessa minaccia che aveva costretto il mondo a spararsi da dietro una trincea torna a tenere la gente con il fiato sospeso. I totalitarismi spingono i paesi verso il baratro, mentre le diplomazie lottano per evitare un altro scenario globale di terrore. L'isolazionismo portato avanti da FDR negli anni precedenti comincia ad assumere le sembianze di un lusso. Mentre i governi di Francia e Inghilterra tendono a lasciare impunite le aggressioni sia verbali che fisiche della nuova Germania nazista, Roosevelt da lontano osserva con attenzione e in un celebre discorso tenuto a Chicago nel 1937 ammonisce la sua gente. La pace e la sicurezza del 90% della popolazione mondiale sono compromesse dal rimanente 10% che minaccia di infrangere l'ordine e la legalità. Purtroppo sembra che l'epidemia di illegalità mondiale si stia diffondendo. Quando un'epidemia fisica inizia a propagarsi, la comunità vuole che chi ne sia colpevole venga messo in quarantena. Il discorso della quarantena scuote la nazione, che vede nel monito del suo presidente un segnale di un atteggiamento verso il resto del mondo che è cambiato. Gli Stati Uniti non lasceranno che qualche dittatore esaltato vanifichi gli sforzi fatti dal resto del mondo per garantire la convivenza. Per ora si tratta di un discorso, ma Roosevelt ha già dimostrato di saper passare ai fatti. La situazione precipita nel giro di poco tempo. La volontà annessionistica e distruttrice di Hitler ben presto spazza via gli equilibri. Nessuna delle diplomazie occidentali riesce nel tentativo di arginarlo, neppure quella società delle nazioni ideata da Wilson, che dimostra tutta la sua debolezza sfaldandosi al momento di prendere le decisioni più importanti. Il mondo si divide in due. Da un lato i regimi dittatoriali, con l'Italia di Mussolini e il Giappone ad affiancare i tedeschi. Dall'altra, per ora, Francia e Inghilterra, che il 1 settembre del 39, impossibilitati a rimandare nuovamente, dichiarano guerra alla Germania. L'Unione Sovietica per ora rimane alla finestra, così come l'America del presidente Roosevelt, che nel suo ufficio osserva preoccupato l'evolversi dei fatti e ripensa quando 20 anni prima Woodrow Wilson si era trovato alle prese con gli stessi dubbi. Chissà se il destino vorrà unirli ancora una volta. What's the matter? La guerra, un'altra volta nel giro di 20 anni, divampa in Europa trascinando con sé il resto del mondo. L'esercito di Hitler nei primi 3 anni polverizza le resistenze degli alleati, che osservano quasi impotenti l'invasione tedesca, mentre i campi di concentramento diventano il simbolo della follia nazista. Persino l'Unione Sovietica, forte di un patto di non aggressione stipulato in precedenza con la Germania e costretta a difendersi dall'assedio della Wehrmacht, decisa a ignorare i precedenti accordi. Per Roosevelt non c'è neanche il tempo di godersi il terzo mandato consecutivo, che si realizza nel 1940 in pieno conflitto. Si tratta di un evento storico e mai più replicabile, dopo che nel 1951 un emendamento costituzionale proibirà la possibilità di venire eletti per più di 2 mandati. Ma come detto, sarà un'esultanza breve. Un anno dopo i giapponesi scioglieranno tutti i dubbi circa l'intervento americano nella Seconda Guerra Mondiale. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked. Il 7 dicembre, il giorno dell'infamia, secondo le parole di Roosevelt che avete appena sentito, l'aviazione giapponese attacca la flotta e le installazioni americane stanziate nella base navale di Pearl Harbor, situata nelle isole Hawaii. Si tratta di un'aggressione a sorpresa che sconvolge la popolazione e provoca un forte desiderio di vendetta. Così come Wilson nel 1917, Roosevelt non vuole esimersi dal prendere decisioni drastiche e reagisce. L'America entra in guerra e anche in questo caso l'intervento risulterà determinante. L'esercito a stelle e strisce, questa volta però, non si limita a fornire aiuti e sostegno agli alleati, ma prende in mano le operazioni militari. Superati i primi 2 anni non senza momenti difficili e approfittando dell'eroica resistenza russa che fiacca i soldati tedeschi impegnati in gran massa nel territorio sovietico, gli Stati Uniti, già arrivati in Italia, preparano il loro sbarco sul campo di battaglia più importante. Così il 6 giugno 1944 la Normandia diventa teatro della più grande invasione anfibia della storia. 3 mesi dopo quello storico sbarco, Franklin Delano Roosevelt viene rieletto per la 4ª volta presidente. Nessuno muove un muscolo né si stupisce per l'ennesimo incarico a FDR. L'America non ha dubbi. Sarà insieme all'uomo con cui ha vissuto gli ultimi drammatici eventi che affronterà il proprio destino. La Germania circondata ha le ore contate. Ormai è solo una questione di tempo. Among those stopping off at Malta prior to the Big Three conferences is W. Averill Harriman, U.S. Ambassador to the Soviets. Nel febbraio del 1945, con Berlino ormai circondata dall'esercito alleato, si tiene a Yalta un incontro tra i capi di Stato inglese, americano e sovietico per delineare gli scenari futuri di un mondo che a breve dovrà fare i conti con l'ennesima ricostruzione. Si tratta di un incontro preliminare dall'alto valore simbolico. L'immagine di Roosevelt, Churchill e Stalin, seduti di fronte ai fotografi avvolti nei loro cappottoni, farà il giro del globo, insieme ai loro sorrisi, stanchi, tirati. Roosevelt in effetti arriva in Crimea molto provato. L'incredibile longevità della sua leadership è ormai agli sgoccioli, fiaccata dall'età, dal peso di una crisi economica nazionale, una guerra mondiale e una malattia che lo perseguita da anni. Farà appena in tempo a gettare le basi per un futuro di speranza. Morirà infatti un paio di mesi dopo, in tempo per evitare di assistere all'ultima pazzia della guerra, lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. L'America piangerà il suo leader, esattamente come aveva fatto per Woodrow Wilson, il democratico che aveva portato la sua passione politica al servizio del popolo. Uniti da un incontro e da un filo invisibile che ne ha tracciato il percorso, Roosevelt e Wilson hanno avuto il merito e la responsabilità di affrontare direttamente il Novecento, il secolo che più di ogni altro ha messo a dura prova la storia dell'uomo. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.